Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano, lo sguardo che va al di là dei nostri confini. Insieme con me ci sono Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli in redazione, Filippo Aureggi invece in regia. Commenti e domande li potete fare in diretta al 349-238-6666, questi sono gli sms. Twitter, cinguettate pure all'account Giampaz oppure Nessun Luogo 24, commenti più lunghi invece li leggo, ce l'ho qua sotto mano su Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Anche quest'oggi il dossier immigrazione è al centro, è sulle prime pagine di quasi tutti i giornali internazionali. Avete sentito lo stato dell'arte anche dalle ultimissime di GR24. Noi quest'oggi ci concentriamo in particolare su una zona già toccata da Nessun Luogo Lontano. Andiamo lì dove si sta finendo di costruire il muro tra Serbia e Ungheria. It's nearly impossible to climb over the fence. Those who try will be subject to prosecution. This won't be a walk in the park. E la voce che avete sentito è quella di Balázs Neme, che è il sindaco di Bassa Lams, una delle città al confine con la Serbia, lì proprio dove si sta ultimando di costruire, lo chiamiamo muro, ma in realtà è una lunga rete, lunga centinaia di chilometri. La costruzione prevede due passi differenti: prima viene lavorata in orizzontale, poi verrà elevata fino a 4 metri. Questi 4 metri per centinaia di chilometri sono la risposta del governo ungherese al flusso di migranti che ormai da alcuni mesi e da alcuni anni sta diventando sempre più imponente. E da qui a una settimana sarà ultimato questo muro. Che cosa significa questa rete? È una soluzione per l'Ungheria? Molto probabilmente sì. In realtà il blocco creerà un ulteriore problema, perché i migranti e profughi rimarranno a quel punto bloccati in Serbia, un paese che, lo vedremo più avanti nella trasmissione, non è attrezzato per l'accoglienza. Ma torniamo vicino a quel muro. Dopo le parole di soddisfazione del sindaco Neme, sentite invece che cosa ha detto ai microfoni di Deutsche Welle un afghano arrivato fino a lì, pensate, in stampelle. People running for their lives will get over this fence. E lui risponde in qualche modo indirettamente al politico ungherese, che dice: noi scappiamo dalla guerra, sono arrivato fino a qua senza una gamba, figurarsi se un muro come questo mi potrà fermare. In realtà la risposta del migrante è lungimirante, perché il muro rischia di essere l'ennesimo tampone che sposterà semplicemente il problema. Cioè, se l'Ungheria chiude quella rotta, molto ragionevolmente se ne aprirà un'altra. Lasciatemi aprire una brevissima parentesi personale, non per citarmi addosso ma per raccontarvi alcuni fatti. Nel 2009 ero a Samos, che è una piccola isola greca che riceveva circa dai 17.000 ai 20.000 migranti l'anno che provenivano dalla Turchia. Era il 2009. Maggiori pattugliamenti e respingimenti del guardiacoste greco chiusero quella rotta. Allora si aprì quella terrestre, quella sul fiume Evros, e lì andai nel 2012. Lì costruirono un muro e fermarono il flusso. Allora si aprì un'altra rotta, quella a nord, quella che passa dalle montagne della Bulgaria. E nel frattempo si era aperta quella delle isole di Lesvos, ad esempio, e Kos su tutte, che vi abbiamo raccontato nelle ultime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Allora, la domanda da farsi è: servono i muri? Torniamo su quel muro in Ungheria. Lo facciamo con le parole di Gyöngyösi Márton, che è deputato Jobbik, partito di estrema destra ungherese, che nelle ultime tornate elettorali ha raggiunto il 20% ed è ormai il terzo partito, se non il secondo, appunto, in Ungheria. Ho chiesto a Márton se approva la soluzione la costruzione del muro al confine tra Ungheria e Serbia. Sentite che cosa dice. Assolutamente. Noi siamo un partito di opposizione, ma Jobbik ha supportato questa iniziativa del governo ungherese. Era una cosa che è stata proposta qualche mese fa, quando abbiamo visto le grandi ondate di migranti che arrivavano nel confine sud dell'Ungheria. Abbiamo però cercato anche di evidenziare il fatto che, anche se appoggiamo questa soluzione di costruire una barriera, questa può essere solo una soluzione temporanea. Dobbiamo pensare di introdurre nuove soluzioni, perché perché pochi chilometri di cinta lungo il confine serbo non fermeranno i migranti che hanno lottato per centinaia di chilometri per arrivare qui. Basta fare qualche chilometro in più per aggirare la recinzione, oppure pagare qualche euro per tagliarla. Questa recinzione non li fermerà, per cui bisogna prendere immediatamente altre misure per fermare questo flusso di migranti. Vi ricordo 349-238-6666 per commentare i temi di quest'oggi. Nel viaggio che vi propongo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano partiamo da quel muro che verrà finito di costruire entro una settimana al confine tra Serbia e Ungheria. E al 349-238-6666, ad esempio, Tonio dalla provincia di Cremona dice: con l'apertura delle frontiere macedoni il problema è stato solo spostato al confine con l'Ungheria finché la situazione non viene gestita a livello internazionale. Per capire meglio che paese è l'Ungheria e che impatti può avere la costruzione di questo muro sul paese, abbiamo raggiunto Massimo Congiu, che è giornalista e direttore dell'osservatorio sociale Mitteleuropeo. Sentite come fotografa l'Ungheria. L'Ungheria in questo momento sente di essere uno dei paesi in Europa che, insomma, più degli altri sta subendo una pressione particolarmente forte da parte di questi flussi migratori, flussi che arrivano in sostanza soprattutto dall'Afghanistan, dall'Iraq e dalla Siria, anche dal Kosovo, ma soprattutto da questi tre paesi. Si parla di migranti, numerosi migranti che attraverso la cosiddetta rotta balcanica superano il confine ungaro-serbo e passano per l'Ungheria. Il loro obiettivo è quello di raggiungere i paesi dell'Europa occidentale, dell'Europa settentrionale, paesi quindi più forti dal punto di vista economico, però transitano per l'Ungheria, e questo transito preoccupa le autorità ungheresi, soprattutto, diciamo, per la proporzione del fenomeno. Si parla infatti, secondo cifre che sono state appunto diffuse, si parla di 80.000 arrivi di migrati clandestini dall'inizio dell'anno, una cifra che supera di circa il doppio quella che invece è stata registrata l'anno scorso. E i flussi sembra che non tendano a diminuire, tant'è vero che sto sentendo di statistiche che parlano di oltre 1.000 arrivi giornalieri, quindi si parla di un'emergenza vera e propria, di un'emergenza che, ma questo Orban e il governo ungherese l'hanno detto già da tempo, che impone al paese di non aspettare più le soluzioni dell'Unione Europea, soluzioni che peraltro non ci sono, non esistono, e che dimostra che ogni paese ha il diritto di comportarsi autonomamente e quindi di prendere le decisioni che crede sulla base delle sue specifiche esigenze, sulla base, diciamo, della sua situazione peculiare. Del resto, comunque, ecco, Orban ha preceduto, diciamo, anticipato gli interventi concreti, come quello per esempio della costruzione di questa barriera al confine ungaro-serbo, un confine poroso, con una serie di dichiarazioni che sono state fatte in contesti pubblici diversi mesi fa, dichiarazioni nelle quali il primo ministro diceva chiaramente di non considerare positivo il fenomeno dell'immigrazione, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista culturale, né dal punto di vista della sicurezza pubblica, facendo così stabilendo un nesso, tra l'altro, tra il fenomeno dell'immigrazione e quello del terrorismo, e di non vedere di buon occhio la presenza di persone provenienti da altre culture in Ungheria, cioè di non volere in sostanza che l'Ungheria diventasse un enorme campo profughi. Sì. Quindi, ecco, data questa emergenza, il governo ha affermato la necessità e il diritto di intervenire per sottrarre il paese a questa pressione crescente, a questo fattore, diciamo, di destabilizzazione rappresentato proprio da tali flussi così corposi. (349) 238-6666 per commentare intanto questa prima fotografia che ci ha fatto Massimo Congiu, direttore dell'Osservatorio Sociale Mitteleuropeo. Ben conosce l'Ungheria e ci ha aiutato a capire meglio la politica di Orban e anche le prese di posizione del partito di destra. Jobbik, ancora messaggi, Max da Torino che dice: fermare questa ondata è come pretendere di fermare l'acqua, succederà una gran confusione, sto parafrasando, con scelte peggiori da parte degli stati che innalzano queste barriere, e non dico quali, colpa di un'Europa cieca e imbalsamata. Così Max da Torino. E ancora un altro ascoltatore che dice: vergogna Europa, la civilissima Europa dovrebbe andarle a prendere nei loro paesi e non lasciarli in mano ai trafficanti, le immagini di coste della frontiera macedone fanno orrore. Nel frattempo però, siccome Massimo Congiu sottolineava l'inazione europea e quindi la presa di posizione ungherese che non ha voglia di aspettare le non decisioni o decisioni da parte dell'Europa, io vi segnalo invece una notizia che è stata molto poco ripresa dai media italiani, quasi per nulla, che risale in realtà a 3 giorni fa. C'è una circolare in Germania che è stata attivata fondamentalmente ieri, per cui la Germania ha annunciato che processerà tutte le richieste di asilo dei siriani che sono arrivati, bypassando in qualche modo il regolamento Dublino. Il regolamento Dublino dice che se un siriano è arrivato in Italia, è stato identificato in Italia, è in Italia che deve chiedere asilo. Poi sappiamo che la maggior parte di essi punta alla Germania, al nord. Ebbene, la Germania ha detto che processerà tutte quelle domande di asilo senza rimandarli indietro nei paesi in cui sono stati identificati. Visto che si era parlato di una previsione di 800.000 richiedenti asilo per quest'anno, capite bene che è una notizia di estrema importanza. Sempre 3492386666, c'è Angelo che dice: non possiamo accogliere 1 miliardo di africani, chi non vuole mettere regole è un ipocrita, la situazione diventerà ingestibile. Allora andiamo avanti nell'analisi, sempre con Massimo Congiu, direttore dell'Osservatorio Sociale Mitteleuropeo, a cui ho chiesto, siccome l'Ungheria, così come la Serbia e così come la Macedonia, è per la maggior parte dei migranti un paese di transito, perché non è quella la destinazione che loro vogliono, ho chiesto a Congiu se è riuscito a capire quanto tempo i migranti restano sul suolo ungherese. Sentite che cosa dice. Ma non sono a conoscenza di dati precisi da questo punto di vista. Quello che so è che il governo non ha fatto altro che scoraggiare questi flussi, tra l'altro anche con iniziative quali per esempio quella riguardante i cartelloni che sono apparsi alla fine della primavera in diverse città ungheresi, cartelloni con messaggi del tipo se vieni in Ungheria, rivolti agli immigrati chiaramente, se vieni in Ungheria non puoi portare via il lavoro agli ungheresi, se vieni in Ungheria devi rispettarne le leggi, devi rispettarne la cultura e così via, quindi non si tratta chiaramente di messaggi di benvenuto, ma in sostanza il messaggio fondamentale del governo è che il paese non ha la possibilità di mantenere queste persone, che queste persone non hanno motivo di restare in Ungheria, visto che il paese ha la necessità e il diritto di concentrarsi sulla difesa degli interessi nazionali e sul soddisfacimento dei bisogni espressi dalle famiglie ungheresi, più che dal mantenimento dei profughi. So comunque che il più grande campo profughi ungherese si trova nei pressi di Debrecen, quindi nella parte orientale del paese. Uh-huh. E in quel campo profughi all'inizio dell'estate si sono verificati dei disordini causati a quanto pare da immigrati clandestini, un centinaio di immigrati clandestini. In quell'occasione la polizia è intervenuta con lacrimogene appunto per calmare un po' la situazione, ma c'è da considerare che quel campo è stato concepito per ospitare 800 persone, ve ne sarebbero invece circa 1600. Quindi il paese denuncia una situazione divenuta sempre più difficile, una situazione insostenibile a fronte della quale ha dovuto adottare delle misure estreme, come quella della barriera, di questa barriera al confine ungaro-serbo che secondo le informazioni che ho a disposizione dovrà essere ultimata almeno nelle strutture fondamentali, almeno per ciò che riguarda la lunghezza, entro la settimana prossima. Lo ricordo, la barriera dovrà percorrere il confine ungaro-serbo, quindi per una lunghezza di 175 chilometri che comprendono anche un tratto fluviale. Quello che dovrà essere aggiustato sarà l'altezza di questa barriera dovrà essere di 4 metri, quindi dopo questa prima fase di lavori ve ne saranno di successive proprio per ultimare questa struttura. Tra 349-238-6666, gli sms, Twitter, Giampaz, Nessun Luogo 24, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. C'è Valerio De Roma che ci suggerisce di parlare anche dei movimenti neonazisti in Germania. Ci arriveremo, perché, come dicevo, la soluzione del muro è stata sponsorizzata da un partito di estrema destra come Jobbik, che era un partito che aveva gruppi paramilitari, che era xenofobo, che faceva raid contro i Rom, era antisemita. Adesso Jobbik si sta ripulendo, per così dire, la faccia, e si sta preparando molto ragionalmente a, se non entrare nel governo nel 2018, quando è prevista una nuova tornata elettorale, quantomeno a collaborare all'esecutivo, per cui chiaramente certi termini, una certa propaganda, una certa iconografia è stata abbandonata da Jobbik. E se ci seguite, vi abbiamo anche dato conto nelle scorse puntate di quegli incidenti vicino Dresda, dove un gruppo di neonazisti si è scontrato con la polizia perché non voleva che arrivassero alcune decine di rifugiati in un centro, e quindi vi sono stati scontri con la polizia all'urlo di Heil Hitler. È finita a smanganellate. La Merkel è intervenuta in una conferenza stampa poco dopo e ha severamente bollato quell'episodio. La stessa Merkel, la quale, lo ripeto, notizia bomba a mio parere, ha detto che in barba al regolamento Dublino accoglierà le domande di 800.000 richiedenti asilo. Poi c'è Daniele da Treviso, sempre al 349-238-6666, dice: i migranti hanno il diritto dell'asilo, non di scegliersi il paese dal quale farsi mantenere. A parte che non hanno nessuna intenzione di farsi mantenere, almeno non tutti, che io sappia, perché poi vengono qua per rifarsi una vita e anche per lavorare. E però ha toccato Daniele da Treviso sicuramente un punto molto importante, cioè quello della redistribuzione dei rifugiati, cioè in quale paese mandarli. C'è un problema che è la storicità e la storia dei flussi migratori. Quando una diaspora, quando una comunità è già molto presente in un paese, è chiaro che amici, parenti, semplici conoscenti, chi arriva dalla stessa città tenderà a andare nello stesso luogo dove già è presente una diaspora. Allora, andiamo avanti con l'analisi, perché abbiamo raggiunto anche Gauri Van Gulik, che è vice direttrice del team Unione Europea e Balcani per Amnesty International, al quale ho chiesto l'impatto di questo flusso di migranti in Ungheria. Sentite che cosa dice. Well, what we've seen is a very high number of entries into Hungary. Stiamo assistendo all'arrivo di un grande flusso di migranti in Ungheria, provenienti da questa nuova rotta. Le persone passano dalla Grecia, dove c'è una situazione orribile che noi abbiamo documentato, e vengono spinte nei Balcani, in paesi come la Macedonia, la Serbia, fino all'Ungheria. Quindi assistiamo a un aumento del numero di persone. Ma il grande problema è l'atteggiamento e le politiche di respingimento adottate dal governo ungherese. Queste rendono ancora più grave la situazione e impattano sul numero di migranti e sulle loro condizioni, perché vengono respinti nei paesi da cui arrivano, dove non possono godere della protezione internazionale. E anche la voce di Amnesty International punta il dito sulla costruzione del muro, perché non va a offrire una soluzione, ma è semplicemente un distogliere il problema da quel confine. Allora ho chiesto che cosa pensa accadrà dopo il termine della costruzione di questo muro. Fra l'altro, si sta registrando un afflusso massiccio di migranti nelle ultime settimane, proprio perché il muro è stato annunciato e quindi i migranti si sono detti: corriamo verso l'Ungheria prima che quella rotta venga chiusa. Sentite che cosa dice ancora di Amnesty International. What's important to say is that defense is the most visible. Quello di cui è importante parlare è questa barriera fisica e visibile che ostacola l'arrivo delle persone, ma anche del fatto che il governo sta adottando una politica di espulsioni, rimandando indietro le persone già entrate nel paese. C'è infatti un emendamento che è passato con la legge che considera Serbia e Macedonia come paesi di transito sicuri. Questo vuol dire che alcune persone possono essere rimandate in questi paesi perché l'Ungheria li considera in grado di accoglierli. Il 99% delle persone che arriva in Ungheria passa dalla Serbia. Questi dicono i dati fino ad agosto. Quindi questa legge è stata costruita apposta per respingere le persone, ignorando che l'Ungheria ha l'obbligo di accogliere i richiedenti asilo. Questa situazione però sta creando un grande aumento del numero di persone in Serbia. Lì arrivano le persone dalla Grecia e quelle respinte dall'Ungheria. Quindi le persone sono stoccate in questo paese dei Balcani senza avere un posto dove andare. Sono stoccate fisicamente, non possono lavorare e vivono in condizioni inumane. È un disastro. L'Ungheria non sta applicando il diritto internazionale. All'inizio di questa trasmissione vi ho fatto sentire la voce di Gyöngyösi Márton, deputato di Jobbik, partito di estrema destra ungherese, che ha preso praticamente il 20% alle ultime elezioni nazionali ed è la terza forza del paese. Se ricordate, l'esponente di Jobbik diceva che la costruzione del muro è soltanto una delle misure a cui l'Ungheria e il governo di Orban sta pensando. Quali sono le altre misure invocate da Jobbik e che Orban vorrebbe applicare? Sentite. Una delle cose su cui abbiamo continuato ad insistere è che un paio di anni fa in Ungheria, che ci crediate o meno, è stata presa una decisione sbagliata. Prima le guardie di frontiera erano un istituto separato e invece adesso la responsabilità di sorvegliare il confine è stata delegata alla polizia ungherese. Io penso che questa decisione sia sbagliata, che sia stato un grosso errore e dovrebbe essere cambiata. Si dovrebbe tornare indietro. Bisognerebbe reistituire il corpo delle guardie di confine come separato e con una sola responsabilità: controllare il confine di questo paese. Al momento ci stiamo concentrando sul flusso di migranti che arriva dalla Serbia, ma dobbiamo ricordare che anche la situazione in Ucraina è sempre più instabile. Sarebbe una tragedia per l'Ungheria se ai migranti in arrivo dal sud si sommassero anche quelli in arrivo dall'est, dall'Ucraina, e dobbiamo prepararci a questa situazione. Quindi reistituire il corpo delle guardie di confine è il minimo. Ovviamente dobbiamo anche uscire da questo approccio liberale, che sfortunatamente l'Europa intera sta ancora abbracciando. Per cui permettiamo ai rifugiati, ai migranti, di venire nel nostro paese e fare quello che vogliono. Stanno ancora muovendosi e camminando fuori dai campi. Questo deve essere fermato. Intendo, chi viene qui in Ungheria, a Budapest, e va lungo la ferrovia, in certe parti della città, rimane scioccato dai migranti seduti per terra, che vanno in giro. Abbiamo già avuto anche dei problemi. Si sono trovate malattie sconosciute. Alcuni migranti sono stati portati in ospedale. Centinaia di migranti con malattie sconosciute. Dobbiamo mettere i migranti nei campi, tenerli lì, tenere questi campi chiusi, finché la procedura disposta dalle autorità ungheresi non sarà finita. Quello che sta succedendo è completamente inaccettabile e ovviamente dobbiamo pensare a misure di deportazione. Quelli che arrivano qui e non si capisce da dove vengano, senza nessun documento, senza una chiara intenzione di quello che vogliono fare qui, noi dovremo prenderli e portarli indietro verso la direzione da cui sono venuti. Così Gyöngyösi Márton, deputato di Jobbik, che ho incalzato chiedendogli però che questo è contrario alle leggi internazionali, non si possono rispedire indietro per esempio i siriani. Sentite che cosa dice. Sì, ma il problema è che non abbiamo la capacità di fare questa cosa che lei sta dicendo. Penso che se qualcuno sia perseguitato politicamente nel suo paese, allora dovrebbe essere accettato e gli si dovrebbe dare lo status di rifugiato. Io vengo da un paese che ha sofferto molto nel XX secolo, dopo le due guerre mondiali perse, sotto il comunismo. Molti dei miei compatrioti hanno lasciato il paese e chiesto lo status di rifugiato nell'Europa dell'Ovest o negli Stati Uniti. Ma queste persone erano completamente diverse dal tipo di migranti che vediamo adesso, dalle centinaia che sono qui in Ungheria. Tutti quelli che li vedono e ci parlano capiscono che questi non sono rifugiati politici che scappano da un regime, sono migranti economici che l'Europa, e specialmente l'Ungheria, non possono accettare. Non abbiamo la capacità economica, la capacità finanziaria e non abbiamo gli strumenti sociali per integrare queste persone. Abbiamo problemi enormi e non abbiamo il tipo di passato che ci dovrebbe far pensare al futuro di certi paesi e certe società. Penso che alcune nazioni come la Gran Bretagna, la Francia o l'Olanda, che hanno avuto colonie per centinaia di anni e che hanno sfruttato mezzo mondo per qualsiasi scopo, si dovrebbero grattare la testa e fare un pensierino a come dovrebbero compensare quello che hanno fatto e capire come dovrebbero abbracciare il multiculturalismo, anche se questo termine, secondo me, porterà alla fine dell'Europa in qualche anno o in qualche decennio. Di nuovo, questo non è un problema ungherese. ungherese. Noi non siamo stati coinvolti in nessun tipo di politica estera. Abbiamo contribuito in qualche modo, ma non era nell'interesse della politica estera ungherese destabilizzare i paesi del Nord Africa, nel Medio Oriente. Era un progetto americano, un progetto dell'Europa occidentale, che ha preso parte attiva nel destabilizzare paesi che erano stabili come la Siria, la Libia, l'Egitto, l'Afghanistan, l'Iraq, da dove vengono tutti questi migranti. Io penso che i paesi dell'Europa occidentale e gli Stati Uniti dovrebbero sedersi, ripensare alle loro politiche verso l'estero e ripensare alle cause, alle radici profonde di questo tipo di migrazione moderna, che non ha niente a che fare con il tipo di migrazione cui abbiamo fatto esperienza 40, 50, 60 anni fa, dove c'erano elementi puramente politici e ideologici da cui le persone fuggivano. E queste erano le parole di Gyöngyösi Márton, deputato di Jobbik, partito di estrema destra ungherese, pronto per il 2018 evidentemente a entrare nella compagine governativa se il trend di crescita proseguirà. In questa puntata in Nessun Luogo Lontano stiamo ragionando su quella costruzione del muro, sul flusso migratorio e su quanto le destre in Europa stiano cercando di monetizzare il dossier immigrazione e quanto stiano crescendo. Adesso l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano. Quest'oggi, partendo dalla costruzione del muro tra Serbia e Ungheria e analizzando quel massiccio flusso di migranti che attraversa i Balcani, mettiamo il grandangolo, facciamo un passo indietro e ragioniamo anche sulla crescita dei partiti dell'estrema destra un po' in tutta Europa, non che questo accostamento sia pretestuoso, perché molti di questi partiti hanno nei loro programmi, come avete sentito dall'esponente di Jobbik, proprio una componente di chiusura verso l'immigrazione. Spesso i connotati sono chiaramente xenofobi, sono a volte antisemiti, a volte contro le minoranze. Insomma, un dato di fatto è che molti partiti dell'estrema destra negli ultimi anni sono cresciuti. Quanto la crisi economica, quanto il dossier immigrazione abbia inciso, lo capiremo tra pochissimo con il nostro ospite. Intanto fotografiamo alcuni dei partiti di destra in Europa. Da alcuni anni l'estrema destra europea è in crescita. Nazionalismo, xenofobia ed euroscetticismo sono questi gli ingredienti con cui queste formazioni riescono a conquistare sempre più consensi. Nel marzo di quest'anno il Fronte Nazionale di Marine Le Pen si afferma nelle elezioni dipartimentali francesi. Nonostante il 25% delle preferenze al primo spoglio, non riesce tuttavia a conquistare nessun dipartimento nel turno successivo. Insedia però 62 consiglieri, candidandosi ad essere la terza forza politica del paese. La stessa posizione è ricoperta in Austria dal Partito per la Libertà Austriaca di Heinz Christian Strache. Nelle elezioni nazionali del settembre 2013 conquista infatti il 20,5% delle preferenze, 958.000 voti e 40 seggi. In crescita anche Jobbik, il Movimento per un'Ungheria Migliore. Nell'aprile del 2014 raggiunge infatti il 20% delle preferenze alle nazionali, confermandosi la terza forza del paese. Quasi 1 milione di voti e 23 seggi in Parlamento. Si mantiene in terza posizione anche Alba Dorata in Grecia. Nonostante un calo dei consensi nelle elezioni del gennaio di quest'anno, si attesta infatti al 6,28%, con 17 seggi in Parlamento. L'estrema destra si afferma invece in Danimarca. Nel giugno di quest'anno, il Partito del Popolo Danese ha ottenuto il 21% dei voti e ben 37 seggi in Parlamento, diventando così la seconda forza del paese. Il suo leader, Christian Thulesen Dahl, ha così esposto le priorità della sua agenda politica: tagliare il numero dei richiedenti asilo e reinserire il controllo delle frontiere. Questa è una prima sintetica fotografia della crescita delle destre in Europa. Buongiorno e ben ritrovata Nessun Luogo Lontano. Andrea Mammone, che insegna storia dell'Europa alla Royal Holloway University of London. Professor Mammone, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, professore, da Alba Dorata in Grecia al Partito del Popolo Danese fino a Jobbik in Ungheria, sembra che la destra europea, che guadagna sempre più consensi, abbia nel dossier immigrazione una delle più grandi leve politiche a disposizione. Come mai c'è questa crescita? È, come suggerisce un ascoltatore, l'incapacità delle sinistre di governare il dossier immigrazione o c'è qualcosa di diverso? In realtà sono moltissimi fattori che spiegano la crescita delle destre. Professor Mammone, la sentiamo malissimo, proviamo a recuperare la linea con lei. Intanto vi leggo altri sms arrivati al 349-238-6666. C'è chi dice scorato, l'Italia non esiste più, l'Europa non è mai esistita. E poi chi, questo è incomprensibile purtroppo, però capisco solamente la chiusura, e dice: questa è una invasione. Mauro da Milano invece fa una domanda molto interessante: non capisco perché i migranti scelgono la via dell'Ungheria e non entrino in Croazia, Slovenia e poi Austria. Storicamente la via dell'immigrazione balcanica passa proprio per l'Ungheria. La rotta che traccia questo ascoltatore potrebbe essere una delle alternative che di qui a qualche mese, e io ci potrei scommettere, i migranti tenteranno di percorrere. E poi c'è Max da Torino che dice: i paesi dell'est non hanno riguardo rispetto alla loro gente, figuriamoci di questi poveri cristi. E poi dice: ho visto l'Ucraina, ho visto la gentilezza, evidentemente tra virgolette, della polizia verso i loro ragazzi, magari al Ticci per qualche birra. Penso che in 10 anni ci sarà il fuggi-fuggi della gente da tutti questi paesi dell'est verso l'ovest, e poi rideremo davvero, altro che di questi che scappano di questi giorni. Sempre Max da Torino. Vediamo se abbiamo ristabilito un collegamento. No, non ancora. Allora cerchiamo ancora il professor Mammone. Claudio che dice: il deputato ungherese ha ragione, chi ha destabilizzato e sfruttato quei paesi fino a ieri ora devono accettare le conseguenze accogliendo i rifugiati. L'ascoltatore fa riferimento a Gionghiosi Marton, che sottolineava il fatto come l'Ungheria non avesse partecipato a quelle che chiamava il politico operazioni di destabilizzazione dell'Africa, ad esempio dell'Africa settentrionale, o le guerre in Afghanistan, eccetera eccetera. Quindi dice fondamentalmente è stata l'America, gli Stati Uniti e parte dell'Europa occidentale, e siano loro a piangerne le conseguenze. E poi c'è un altro messaggio: vero, questa immigrazione non è quella del XX secolo, piuttosto quella dei barbari che premevano contro i confini dell'impero romano, inarrestabile, meglio governarla che combatterla perdendo. Sono abbastanza d'accordo sull'ultima parte, meno sull'uso dei termini, perché insomma il termine barbaro è vero che tra virgolette, ma mi sembra un po' forte. Io ricordo che sull'utilizzo dei termini esiste una carta di Roma che impone ai giornalisti un uso corretto dei termini, e forse anche qualche politico farebbe bene ad adeguarsi. Siamo di nuovo in linea con Andrea Mammone, che è professore di storia dell'Europa alla Royal Holloway di Londra. Ben ritrovato professor Mammone, vediamo se la sentiamo meglio. Stavamo dicendo le motivazioni di questa crescita delle destre: il dossier immigrazione è quello che, come dire, fa leva maggiormente o c'è altro? No, sicuramente l'immigrazione è il tema chiave, cioè già a partire dagli anni 50 in realtà, con i primi flussi migratori e poi con la decolonizzazione, questo tema è stato fortemente battuto, e in particolare poi in Francia a partire dagli anni 80, infatti abbiamo la prima vittoria di Le Pen padre. Certo, naturalmente l'immigrazione non è l'unico motivo, c'è anche la globalizzazione, la perdita dei valori nazionali, e così via, la crisi di alcuni partiti tradizionali, la sinistra che abbandona parti delle classi sociali più basse o comunque operaie bianche, e quindi in questo contesto, poi ovviamente sto facendo una generalizzazione, questo avviene nel corso di 10 anni, certo, e a fasi diverse nei diversi paesi europei. Certo. Oggi ovviamente il tema dell'immigrazione è molto forte, anche perché come lei suggeriva prima rispondendo al lettore, vengono utilizzati spesso anche un linguaggio molto forte, per cui c'è questa paura effettiva di un'invasione totale e di orde, come è stato definito, di uomini che aspettano, di donne che aspettano di invadere l'Europa, un'Europa che, come diceva anche il politico ungherese, non sarà più Europa tra qualche anno. Quindi c'è questa paura che viene anche fomentata da alcuni media e da un buon numero di politici. Oggi il problema è, a mio avviso, non tanto, o non solo meglio, l'estrema destra in sé, ma anche quando ci sono partiti e politici, diciamo tradizionali, mainstream, di centrodestra, ma anche di centrosinistra, quando provano a cavalcare questa onda di paura verso gli immigrati e utilizzano un linguaggio che è simile a quello dell'estrema destra. Guardi il caso inglese con Cameron, ma anche quello francese, perché non dimentichiamo che in Francia c'è un governo di centrosinistra, socialista, eppure quei migranti non li vogliono. Ecco, professore, chiedo scusa, la interrompo, perché ha toccato un paio di punti e anche i nostri ospiti prima. È in pericolo l'identità europea e delle singole nazioni? Questo è uno degli argomenti spesso portati, no, da chi vuole una chiusura delle frontiere, perché si dice attenzione, l'Italia è in pericolo, attenzione, l'identità magiara è in pericolo, e questo è il punto. Beh, effettivamente se erano in pericolo, ormai da anni, cioè non oggi per l'arrivo di qualche migliaia di immigrati. Tra l'altro la storia dell'Europa, come la storia del mondo, è fatta di immigrazione, come lei ben sa, per cui c'è questa questione. In realtà non è che è qualcosa che avviene oggi. Il processo di integrazione europea, la globalizzazione stessa, l'americanizzazione che c'è stata delle società europee, hanno fatto probabilmente più di qualche migliaia di immigrati che arrivano, qualcun altro magari se ne va e cambia paese. Quindi cioè, in realtà c'è proprio la questione di che tipo di Europa e che tipo di nazione vogliamo. E anche questi politici di estrema destra a volte sono abbastanza, diciamo tra virgolette, ma nel senso se lo dico, ridicoli, perché a volte parlano al tempo stesso sia difendiamo l'Europa, difendiamo la nostra nazione, poi al tempo stesso rigettano l'Europa e l'integrazione europea. Professore, lei insegna storia. Tra qualche anno, quando un capitolo di un manuale di storia sarà dedicato a uno degli esodi più massicci di profughi dalla Seconda Guerra Mondiale, che è quello che stiamo vivendo ora, quale sarà il titolo di questo capitolo, secondo lei? Personalmente penso alla grande incertezza. Lo dico perché è un po' incertezza, sì. Perché personalmente, cioè, secondo me si è creato un cortocircuito in Europa. Provando a riflettere non riesco ancora a capire bene cosa. Ma se noi pensiamo all'Europa in sé per sé, adesso ovviamente si parla di Unione Europea, però fino a qualche anno fa il termine utilizzato era quello di integrazione europea. Sì. Perché cosa vuol dire integrare? Cioè alla fine è completare, inserire, organizzare, comunque un insieme di processi che vanno dal sociale al culturale. È qualcosa che quindi include, fa parte, è inclusa la socializzazione, inclusa la solidarietà. Oggi in realtà andiamo verso un mondo che non vuole essere mondo europeo, dico, che in parti dei media, in parti della politica, in parte della popolazione non vuole essere integrato. Cioè c'è questa spinta forte alle piccole patrie, alle piccole stato-nazioni, come se queste fossero il toccasana per tutti i mali che oggi oggi vediamo, cioè dalla disoccupazione alla paura del diverso e così via. Quindi sono anni, secondo me, bui, incerti, in cui personalmente non riesco a prevedere cosa potrebbe succedere tra 5-6 anni. Abbiamo visto la situazione greca, abbiamo visto ci sarà un referendum in Gran Bretagna. Sono anni veramente complessi. Sì, in e poi cui, insomma, secondo me. Sì, prego. No, dicevo che come storico chiaramente gli eventi sono così freschi che ci vorrà un distacco, ci vorrà un passo indietro prima di interpretarli, però ci ha già dato alcuni strumenti di cui noi facciamo tesoro. Io ringrazio Andrea Mammone, che segna storia alla Royal Holloway University of London. Buona giornata e buon lavoro, professor Mammone. Buona giornata anche a lei. Allora, nell'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano vi farò sentire ancora le voci di Jobbik e di Amnesty International, perché il cuore della puntata di oggi parte proprio da lì, da quel muro serbo-ungherese. Adesso il traffico, poi di nuovo Nessun Luogo, sarà lontano. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Ben ritrovati, questa è l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, in questa puntata in cui abbiamo concentrato il nostro sguardo sul confine serbo-ungherese per poi allargare l'analisi a come alcuni partiti di estrema destra stiano monetizzando negli ultimi anni il dossier immigrazione, propugnando una chiusura dei confini. Alcuni di questi partiti, come Jobbik, hanno ottenuto il 20% di preferenze alle ultime elezioni nazionali in Ungheria, sono la terza forza del paese. Noi abbiamo raggiunto Gyöngyösi Márton, il quale è assolutamente favorevole al muro, ma non solo, vuole anche più respingimenti alla frontiera. Però io a Márton ho detto attenzione, però, perché le statistiche, contraddicendolo, perché lui sosteneva che la maggior parte dei migranti lì erano migranti economici, gli ho detto no, attenzione, perché i dati delle organizzazioni umanitarie, ma non solo, dicono che la maggior parte sono siriani, quindi potenziali richiedenti asilo. E l'ho contraddetto, sentite che cosa dice. Il problema è che non lo sappiamo. La maggior parte di queste persone non arriva con documenti, non arriva con intenzioni chiare. Non sappiamo da dove arrivano. E sfortunatamente questo paese è solito avere a che fare con 2.000 migranti all'anno. Questo è quello che abbiamo visto arrivare ogni anno fino a 2 anni fa. Ora, alla fine di luglio, abbiamo raggiunto e superato i 100.000 e arriverà a 160.000 o 200.000 alla fine di quest'anno. Le autorità semplicemente non hanno la capacità e i mezzi per prendere queste persone che passano i nostri confini illegalmente. È quasi tutto gestito dalle autorità locali e da gruppi di cittadini che stanno difendendo le loro cittadine. So che non è un problema ungherese, so che voi in Italia con Lampedusa e con la migrazione dall'Africa siete stati lasciati soli con questo problema e c'è pochissimo aiuto che potete ottenere dalle istituzioni dell'Unione Europea. Solitamente quello che ottenete è una lezione sulla tolleranza e sui benefici di un meraviglioso multiculturalismo e vi lasciano da soli a gestire il problema. Penso che questo sia completamente inaccettabile. L'Europa o l'Unione Europea, se davvero abbiamo questa istituzione che è completamente incapace di risolvere ogni problema serio, si debba mettere a pensare di risolvere questo problema seriamente. Perché l'Ungheria non ha altra scelta se non quella di chiudere i suoi confini e fare respingimenti, perché altrimenti vedremo una nazione collassare sotto il peso di questo problema. Gyöngyösi Márton, deputato di Jobbik, così rispondeva alla mia critica. L'ho incalzato chiedendogli che cosa risponde al fatto che la maggior parte degli analisti politici sostengono che Jobbik stia cavalcando una campagna xenofoba e quindi guadagnando in termini elettorali sui temi dell'immigrazione proprio per ottenere voti. Sentite che cosa dice. Ma questo è un approccio assolutamente cinico. Prima di tutto Jobbik non è nel governo. Il muro è stato costruito dal governo attuale capeggiato da Fidesz e da Orbán. Non è Jobbik che sta facendo queste proposte. Le abbiamo supportate e abbiamo preso parte a questo discorso in maniera costruttiva. Ma è ridicolo. Ovviamente risolvere questo problema è imperativo. È una delle maggiori crisi e minacce che abbiamo mai visto in un centinaio di anni. E noi ne abbiamo già vista qualcuna. Questo problema va risolto da tutti. Ogni partito politico, ogni singolo uomo politico dovrebbe prendere parte in questa discussione e difendere il paese e l'Europa intera che è sotto attacco e minacciata. Ovviamente ciascun partito cerca di guadagnare più voti, ma questo non è un gioco politico. Si sta parlando della nostra sopravvivenza come nazione europea e come continente. Rifiuto qualsiasi approccio cinico che dica che Jobbik gioca la carta dell'immigrazione. No, l'immigrazione è un problema serio e chiunque lo minimizzi o non ha buon senso oppure non ha a cuore gli interessi di questo paese e di questo continente. E per chiudere la chiacchierata con Gyöngyösi Márton, deputato di Jobbik, partito di estrema destra ungherese, gli ho chiesto molto semplicemente se Jobbik è un partito razzista o no. Ovviamente no. Noi sottolineiamo alcuni problemi. Diciamo che se vediamo questa migrazione così grande, allora dobbiamo iniziare a parlare della sopravvivenza della nostra civiltà, della nostra razza. E ovviamente se una certa parte della società civile può permettersi di preoccuparsi dell'estinzione della balenottera azzurra, allora mi si dovrebbe permettere di preoccuparmi della minaccia che il mio continente, la mia civiltà e la mia nazione stanno affrontando. Ma questo non ha niente a che fare con il razzismo. Chiunque provi a spingere il discorso in quella direzione è un nemico della sua stessa nazione. Io penso che abbiamo valori da difendere e sfortunatamente il volume di questa migrazione è così grande che dobbiamo pensare a metodi non convenzionali e rapidamente. Dobbiamo rivedere molta di quella piccola ideologia liberale che ci ha avvelenato nel passato e vedere che questo ci porterà verso la destabilizzazione della nostra civiltà se non cominciamo a pensarci seriamente. To our senses. Questa è la risposta di Martin, deputato di Jobbik. Per completezza di informazione, però, dobbiamo ricordare che Jobbik in passato aveva anche legami con un gruppo paramilitare che faceva raid contro i Rom, per esempio, aveva posizione antisemite molto molto forti e da molti era ribattezzato come gruppo neonazista, ma come vi dicevo all'inizio della trasmissione, negli ultimi anni assolutamente si è dato, lasciatemi il termine, l'espressione, una ripulita sia nell'iconografia che anche nel linguaggio, ma questo perché avendo il 20% dei voti e preparandosi alle elezioni del 2018 evidentemente vuole attirare anche voti più moderati. Sempre per completezza, l'ascoltatore che prima parlava dell'invasione dei barbari mi scrive appena adesso dicendo barbari era usato come riferimento storico, mi pareva chiaro, a me non sembrava chiaro, mi scuso io di aver frainteso, carissimo Ugo, l'ascoltatore che ha scritto, e quindi mi sembra di aver adesso, leggendo il nuovo messaggio, rettificato. 349-238-6666, gli ultimi minuti per commentare il tema che stiamo trattando quest'oggi. Torniamo alla voce di Gauri Van Gulik, che è vice direttrice di Amnesty International per la Bulgaria e per i Balcani, alla quale ho chiesto com'è possibile che un partito che in passato, come Jobbik, aveva chiari manifesti, chiari intenti neonazisti, xenofobi e antisemiti, come abbia fatto a prendere il 20%. Evidentemente c'è un sentimento xenofobo nella società ungherese che Jobbik ha intercettato. Sentite che cosa ha detto. È difficile da dire. Voglio dire, c'è stata un'impennata della retorica e delle azioni antirifugiati. Questi sindaci sono aperti alla politica di respingimento di queste persone, quindi questa è una retorica che porta ad atteggiamenti che possiamo definire razzisti. Ma questa è concentrata anche e soprattutto su come l'Europa sta affrontando la questione rifugiati. Sappiamo che l'atteggiamento generale dei paesi di confine dell'Europa è quello di tenere le persone fuori e insistere per un maggior controllo dei confini. Dobbiamo concentrarci su come cambiare l'approccio e dare protezione alle persone in situazioni estreme, invece di alimentare questa situazione caotica che sta crescendo nei paesi lungo i confini europei. Queste situazioni sono il sintomo di una gestione fallimentare dell'Unione Europea in materia di accoglienza e gestione dei flussi migratori. Questa è la posizione di Gauri Van Gulik, vice direttrice di Amnesty International per l'Ungheria e per i Balcani. 349-238-6666 per gli ultimi messaggi che potete mandare sul tema. Alessandro da Imola, credo Ale, irride dicendo: ma Musumeci, questo è veramente un deputato? Punto di domanda. E invece Alessandro, un altro Alessandro evidentemente gli fa eco dicendo: grandissimo il deputato ungherese. E poi c'è chi dice: l'Europa diventerà islamica nel giro di qualche decennio. Oriana Docet. Vorrei chiudere il viaggio di quest'oggi con una piccola notazione, perché questa politica caotica dell'Unione Europea, in cui ogni Stato bada a se stesso, c'è chi costruisce i muri, c'è chi prende 800.000 rifugiati come la Germania, insomma ognuno sembra fare quello che vuole, c'è una mancanza decisamente di coesione. Ho chiesto sempre ad Amnesty International, a Gauri Van Gulik, se questo caos, questa mancata armonizzazione della politica europea possa nutrire i trafficanti di migranti, i trafficanti di esseri umani. Sentite che cosa dice. The most important way to counter smuggling and especially, well, il modo migliore per combattere il traffico di esseri umani è eliminare il mercato. Se entrare in Europa diventa impossibile, è chiaro che i prezzi saliranno e sarà ancora più lucrativo per i trafficanti. È quello che sta succedendo adesso. Quindi la politica ad hoc non può essere quella di respingere le persone. Non rispetta la dignità delle persone, ma alla fine non aiuta nemmeno a stoppare i traffici, a creare canali per le persone in maniera più controllata. Così il numero non scenderà. Questo è un grande errore che si sta commettendo in Europa e non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando di persone che in maggior parte scappano da conflitti e si trovano in situazioni di assoluta disperazione. I motivi che li spingono fuori dai loro paesi sono molto più forti di quelli che li portano a scegliere l'Europa, non dimentichiamolo. Ci vuole una politica di maggiore condivisione della situazione rifugiati in Europa. Sono 90 milioni nel mondo e noi in Europa stiamo discutendo per qualche migliaio. È vergognoso. Ed è tutto per oggi, grazie a Gianni Rosini, Margherita Ina, Emanuele Brignoli, Filippo Origi in regia, grazie a voi per essere stati all'ascolto, un saluto da Giampaolo Musumeci.